Benvenuti a Dedicato, benvenuti anche questo mercoledì con noi. Allora, oggi è una puntata tutta musica, lo staff di Dedicato è in pausa, ma mica, cioè nel senso non in pausa, non vi aspettiate grandi pause, qualcosa hanno sempre da dire, ci mancherebbe altro, perché i nostri giovani non smettono mai di parlare e questo è un bene sicuramente. Speriamo che i nostri fantastici ragazzi dello staff di Dedicato riescano a trasmettere questa loro energia anche agli altri giovani di tutto il mondo, che non smettano non solo di parlare ma anche di pensare, perché effettivamente ce n'è molto bisogno in questo momento storico, politico, sociale, economico, che i giovani pensino e alla grande, ma non solo, concretizzino i loro pensieri in azioni quotidiane. Quindi ragazzi, noi siamo con voi. Anche noi un po' più boomer, un po' più antichi. Ieri mi è stato dato dell'antica, mi hanno detto come sei antica, mamma mia, quasi schifati, ma d'altronde loro hanno 16 anni, i due che me l'hanno detto, quindi maledetti, no, gioiosi, amorosi, noi vi vogliamo benissimo, a voi sedicenni del nostro staff, però non vi permettete mai più di darmi dell'antica. Di conseguenza, pensieri positivi ma anche tante azioni quotidiane, ragazzi, mi raccomando, stringiamo i denti, siamo con voi, vi supportiamo, ma voi siete quelli che adesso dovete iniziare ad alzare un attimino la testolina e guardare fuori dal gregge. Fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her, only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Fever, like I'm burning alive, like a sun. Did I cross the line? Don't last, and life moves so fast. I'd never ask who was better, 'cause she couldn't be more different from me. Happy and free in leather. And I know that you love me, you don't need to remind. Put it all behind. Me, but baby, I see her in the back of my mind. Billie Eilish con Wildflower. Bene, siamo tornati in studio. Noi direi che questa puntata proviamo a dare spazio ai giovani non più giovani e la cosa più importante che abbiamo fatto in queste ultime settimane è stato parlare. Lo dicevamo prima, no? Parlare, pensare, eccetera, eccetera. Ma oltre a parlare, siamo andati avanti con dei percorsi, i nostri percorsi dedicato appunto è dedicato proprio a tutti i nostri ragazzi, i non più grandi, quindi sono veramente, non diciamo piccoli perché loro si offendono, ecco, i non più grandi del gruppo vanno dagli 11 ai 16, diciamo, i medi vanno dai 16 ai 20-22 e i grandi vanno dai 22 ai 40. Quindi ecco, mi raccomando, non parlate mai di piccoli perché vanno giù di testa se li si definisce piccoli. E provano una discreta invidia per i più grandi. Loro non si rendono conto che avere 30-35 anni comporta tante cose in più. Che vabbè, se ne renderanno conto, poveri cuccioli. Ma adesso andiamo ad ascoltare proprio i più grandi del laboratorio Voice on Air, che è un meraviglioso laboratorio che Radio Città Fujiko propone ogni anno sia al corso base sia al corso avanzato. Questi sono i ragazzi del corso avanzato che hanno creato come esercizio radiofonico proprio del laboratorio degli spot dove gli è stato chiesto di descrivere se stessi, cioè è uno spot dove io, fra virgolette, vendo me stesso, no? Gli spot servono per quello, servono per vendere, proporre qualcosa. Ecco, loro dovevano vendere o proporre se stessi in maniera ironica, quindi creare il testo, creare appunto il contenuto di questo spot, deve essere veloce perché uno spot non può durare 5 minuti. Compito fatto, andiamo ad ascoltare i nostri ragazzi. Hai una nuova crush e hai finito le idee per il primo appuntamento? Vuoi stupire una persona con una proposta romantica che non scada nello sdolcinato? Kempa è la soluzione che fa per te. Kempa porta la serenata sotto le finestre di casa tua. Seleziona sulla Kempa app la canzone in elenco, digita l'indirizzo e paga con il metodo che preferisci. E il successo è assicurato! Kempa, serenate a domicilio. Amore, dov'è lo shampoo che uso ultimamente? Mi ci stavo trovando molto bene, la dermatite seborroica stava migliorando tantissimo. Luigi, testina, è finito. Te l'avevo detto ieri, non ricordi? Fai una cosa, vestiti e vai alla erboristeria, vicino a quel barettino che hanno aperto poco tempo fa. Va bene, vado. Ma non mi fido, vai da solo, sono tutti uguali quei cosi, i prodotti, come si chiamano, cosmetici. Ma amore, non ti preoccupare, all'erboristeria Manfredi troverai Stefano, il tuo cosmetologo di fiducia. Grazie a un'esperienza decennale, riuscirà a dirti la differenza tra l'olio di argana e l'estratto di ipocastano. Il tutto per trovare la soluzione ideale per il tuo capello e il cuoio capelluto. Ma amore, come faccio a riconoscerlo? Dai testina, è quello con le gambe storte e il barbone, lo riconosci, voilà. Erboristeria Manfredi, dal 1988, sinonimo di qualità e sicurezza. Suona e non smette più. Questo fatto mio senso del ritmo e non leggo più il libro. Quasi quasi mi alzo, vado a chiedergli perché ha deciso che cazzo proprio oggi niente lo fermerà. Piantala con sti bonghi, non siamo mica in Africa. Porti i capelli lunghi, ma devi fare pratica. Sei sempre fuori tempo, così mi uccidi l'Africa. Che avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello del ritmo. Dai barbuti e che ne suona me. Caro signore, sa che le dico, questa è la libertà. Sono drogato, suono sbagliato, anche se a lei non va. Non vado a tempo, lo so da tempo, non è una novità. Io me ne fotto, cucco di brutto, grazie al mio pim pum pam. Bombi, questa cosa mi turba e mi sento di merda. Quasi quasi mi siedo ed ascolto un po' meglio. Forse forse mi sbaglio, forse ho preso un sbaglio, forse forse un bel cazzo fai cagare. Questa è la verità. Ora ti sfondo i bonghi per vendicare l'Africa, quella che cucinava l'esploratore in tentola. Ti vesti come un rasta, ma questo no non basta. Sarai pure senza problemi, ma di sicuro c'hai quello del ritmo. Ecco spiegato cosa succede in tutte le città. Io suono i bocchi, tu me ne sfondi, di questo passo dove si finirà. Ecco perché qualcuno pensa che sia più pratico radere a suolo un bosco considerato inutile. Prova di questo tipo, non si è mai vista in Africa. Ti avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello dei boschi. Vorrei suonare i bonghi come se fossi in Africa, sotto la quercia nana, in zona Porta Genova. 16.000 firme, niente cibo per Rocco Tanica, ma poi il bosco l'ha inorasato, mentre la gente rabbia per il ponte. Se ne sono fatto il cazzo, vivano sul palazzo, anche tutto con scorticciola, questi grandi sili figli di troia. Elio e le storie tese con Parco Sempione. Ma allora, dato che questa puntata abbiamo detto che siamo un po' in pausa, anche se poi come vedete non è vero, nel nostro studio succedono grandi cose. C'è chi si stava allenando per il Kung Fu, c'è chi invece faceva un attimo di meditazione giusto qui fuori dalla porta facendo respirazioni a volumi altissimi. Allora io mi sono di nuovo richiusa e segregata e sono sola. Sola nel mio momento con voi, e a questo punto io mando subito un altro brano, perché? Perché sì. Questo

scrupules et sans cœur. Je me nourris de ces âmes perdues. Si je n'ai en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. La rue t'élève et te tue. C'est pas ta mère, et si tu crèves, la mort ou la prison. Laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. La rue t'élève et te tue. C'est pas ta mère, et si tu crèves, crève, elle aura tout. La mort ou la prison. Laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Les mères des enfants perdus, Kenny Arcana, ciao amica anche te, bentornata nelle nostre puntate di Dedicato. Kenny Arcana, ospite fisso, i suoi brani sempre, perché vabbè, anche lei oltre a essere un'amica di Dedicato è veramente interessante quello che ha da dire. Speriamo che insomma si capisca il francese, ecco, ma comunque diciamo che arriva il messaggio chiaro e forte. Andiamo avanti. In questa puntata un po' musicale, un po' strana, un po' così, diciamo, colorata per noi che vediamo quello che ci succede intorno, per me, perché oggi sono da sola, però dico noi perché al di là della porta famosa del nostro studio succedono grandi cose e di là non sono più da sola appena apro la porta. Quindi tra meditazioni, yoga e allenamenti di Kung Fu direi che c'è qualche batterista folle che richiede lo spazio per suonare, quindi fra poco glielo lasceremo, ma vabbè, evitiamo i batteristi folli oggi, andiamo avanti, ascoltiamoci l'inno della rivolta. E voi direte perché? La risposta è sempre perché sì, però argomento un po' meglio. L'inno della rivolta perché mi sembra un periodo interessante per ascoltare questo canto anarchico che non è dei più famosi, ma diciamo insomma molto conosciuto, ecco. Mi sembra un periodo storico interessante. Nel fosco fin del secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, già spunta l'alba minacciosamente del diffatato. Già spunta l'alba minacciosamente del diffatato. Urla l'odio, la fame ed il dolore da mille mille facce se le trite, ed urla col suo schianto redentore la dinamite, ed urla col suo schianto redentore la dinamite. Siamo pronti ad alzarciato d'ogni via, spettri macabri del momento estremo, sull'afro il nome santo d'anarchia insorgeremo, sull'afro il nome santo d'anarchia insorgeremo. Per le vittime tutte invendicate, la nel fragor dell'epico rimbombo, compenseremo sulle barricate piombo con piombo. Compenseremo sulle barricate piombo con piombo. E noi cadremo in un fulgor di gloria, schiudendo all'avvenir novella via. Dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia. Dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia. E dopo l'inno della rivolta, che è un augurio che tutto vada per il meglio, ci salutiamo, ci risentiamo sempre mercoledì prossimo alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao!